Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un caro saluto e un augurio di un tempo pasquale ricco di grazia. Ecco, nel nostro appuntamento mensile noi siamo soliti percorrere la lettura continua degli Atti degli Apostoli, ma vista la vicinanza con le celebrazioni pasquali, interrompo la lettura degli Atti degli Apostoli per condividere insieme a voi alcune riflessioni a partire dal capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, che è il capitolo conclusivo del quarto Vangelo e che ci dà davvero una prospettiva, a mio avviso, molto significativa sul mistero della risurrezione di Cristo. Chiedo insieme a voi il dono dello Spirito Santo perché sia Lui a rendere viva la parola, facendo sì che quanto condivideremo non tocchi solo la nostra testa, ma la parola di Dio possa plasmare la nostra vita ed essere significativa per il nostro percorso quotidiano. Ci affidiamo anche a Maria, che è colei che ha generato, custodito e portato il Verbo di Dio. Quindi, a quanti di voi sono nella possibilità di farlo, inviterei a prendere in mano un'edizione della Bibbia o dei Vangeli, aprendolo proprio sul capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. Vedremo se riusciremo a leggerlo per intero. L'intenzione è un pochino quella, dando qualche spunto di riflessione che poi ciascuno può riprendere in modo personale. Come sapete, la nostra conversazione si dividerà in due parti. Nella prima parte sono io che condivido con voi alcune riflessioni, mentre nella seconda parte siete voi che attraverso brevi riflessioni o domande mi aiutate ad approfondire e quindi a mettere in luce alcuni aspetti che possono essere trascurati durante la nostra conversazione. Ma entriamo subito nel testo, mettendoci in ascolto dell'apertura di questo capitolo 21 che ci immerge proprio nei misteri che stiamo celebrando. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Bene, questa è la cornice introduttiva. Dopo questi fatti, di quali fatti si tratta? Si tratta dei fatti della risurrezione di Gesù, quindi dopo questi fatti è dopo che la comunità, donne e discepoli in questo caso, ha vissuto l'incontro con il Signore. Noi ieri ed oggi abbiamo ascoltato i racconti di Giovanni e di Matteo per quanto riguarda l'episodio del primo giorno dopo il sabato e tra gli elementi che sono subito emersi alla luce ce ne sono due. Il primo è quello della corsa. Abbiamo notato nei diversi testi come un pochino tutti i protagonisti presentatici dalla liturgia correvano. Correva Maria di Magdala, piena di paura e di angoscia per il fatto di non aver trovato il corpo del Signore. Corrono Pietro e il discepolo amato alla tomba per cercare di capire se quello che Maria aveva annunciato loro era vero oppure no. E nel Vangelo di oggi anche le donne abbandonarono in fretta il sepolcro e corsero a dare il lieto annuncio della risurrezione ai discepoli. C'è una corsa che grazie a Dio è caratterizzata dal coinvolgimento di una comunità, dal confronto con una comunità, altrimenti quella corsa poteva anche finire male, cioè poteva anche far sbandare sia Maria di Magdala, sia le donne, sia Pietro e il discepolo amato. Quindi una corsa che caratterizza la prima comunità cristiana, un dinamismo che la abita all'indomani del mistero pasquale. E questo già ci dice che c'è un movimento che deve essere innescato dai misteri che abbiamo celebrato. E la seconda caratteristica che ha accompagnato i Vangeli, soprattutto il Vangelo di Matteo e di Marco, è la caratteristica che se le donne hanno l'esperienza del risorto a Gerusalemme, questo non è permesso ai discepoli. I discepoli, per fare esperienza del risorto, devono cambiare orizzonte, devono cambiare prospettiva, devono recarsi in Galilea. Bene, il Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, si colloca proprio in questa cornice. A dire il vero, Giovanni riconosce prima due diverse manifestazioni del risorto a Gerusalemme per i discepoli, ma il maestro sembra rinviare anche loro in Galilea, anche in questo Vangelo. Quindi, dopo questi fatti, Gesù si manifesta di nuovo ai suoi e si manifesta in Galilea. Come mai la Galilea e non Gerusalemme? Proprio perché il movimento prodotto della Pasqua è un movimento di dinamismo da un lato e di apertura dall'altro. Vengono aperte le tombe, vengono aperte le prospettive, vengono aperti gli orizzonti. La Galilea è quella regione dove non solo tutto è iniziato e quindi permette ai discepoli di ripercorrere la loro storia alla luce del mistero pasquale, ma anche la regione nella quale il confronto tra mondo pagano e mondo ebraico è più palese, è più forte. Nella regione della Galilea passa la grande via di commercio che unisce l'Oriente e l'Occidente, quindi rappresenta un vero e proprio crocevia, e quel mare posto al centro di questo crocevia, un mare chiamato in questo modo, ma di per sé è semplicemente un lago di Tiberiade, non a caso era anche definito dalla tradizione come l'occhio di Dio, perché in quel punto Dio aveva un po' la rappresentanza di tutti quelli che erano le diverse espressioni sociali, religiose, umane del popolo del primo secolo. Quindi inviare, incontrare i suoi in Galilea significa permettere alla risurrezione di irradiare nel mondo in tutte le sue diverse varianti, in tutte le sue espressioni. E notiamo che Gesù si manifesta in un modo molto preciso. Il testo dice: Gesù si manifestò così. Il manifestarsi, il verbo utilizzato per manifestarsi, non è un'apparizione, come dire, sfocata. Manifestarsi è il rendersi presente tangibile di una persona, tangibile, verificabile, quindi è una persona che si rende presente nella vita quotidiana e ha il potere di incidere su quello che uno vive, pensa, sente. Le persone menzionate sono ben elencate, si parla di Simone, si parla di Tommaso, detto Didimo, di Natanaele di Cana di Galilea, di Giacomo e Giovanni, cioè i figli di Zebedeo, e altri due discepoli che rimangono nell'anonimato. Quindi in tutto abbiamo un numero particolare di persone che non rappresentano però la totalità, cioè in questa manifestazione del risorto la comunità è in un certo senso spezzata, c'è qualcuno che è presente e qualcuno che è assente. Questo è tipico dei racconti di Giovanni. Giovanni insiste sul fatto che nelle apparizioni del risorto c'è sempre qualcuno che manca e che va atteso. Prima c'era stato il caso di Tommaso che era assente e andava atteso, ora c'è questo gruppo ma non ci sono tutti. Ora, la cornice sembra essere promettente perché i fatti che stanno a monte sono fatti che riguardano la risurrezione di Gesù. Le persone che vengono menzionate sono tutte persone che hanno avuto esperienze significative con il maestro di Galilea. La cornice che viene evocata, tratteggiata, è una cornice particolare, perché comunque è una cornice che evoca l'universalità, gli orizzonti aperti, quella del lago di Tiberiade. Bene, in questo contesto cosa succede? Il testo lo dice subito dopo, cioè nei versetti 3 seguenti. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Bene, in una cornice promettente, in una cornice abitata dalla liturgia della risurrezione, perché in fondo i discepoli presenti hanno sperimentato personalmente la manifestazione del risorto già due volte, questa è la terza volta, ci dirà l'Evangelista alla fine del testo, ci si aspetterebbe da parte di Simon Pietro un'apertura all'insegna della speranza, di parole di speranza, di parole attente alla parte mancante della comunità. E invece Pietro entra in scena con un orizzonte ancora ristretto. La prima parola che Pietro dice dopo aver sperimentato personalmente la risurrezione è: io vado a pescare. E ci cadono le braccia, perché com'è possibile che la guida della comunità cristiana, dopo che ha ricevuto il mandato del risorto, dopo che l'ha incontrato personalmente, si richiuda ancora nel proprio io e si rinchiuda ancora nelle cose che lui sa fare? Tra l'altro avrebbe potuto fare delle riflessioni di altro tipo, bastava anche solo dire: ma dove sono quelli che mancano? Cosa possiamo fare alla luce di quello che abbiamo sperimentato? In quale orizzonte dirigere la nostra missione? E invece no, Pietro dice: io vado a pescare. Quell'io che risuona in questo brano è un io che non costruisce futuro, rischia di essere un qualcosa che chiude la comunità invece di aprirla, anche se sono sul lago di Tiberiade, anche se sono in Galilea. E gli altri come reagiscono? Gli dissero: veniamo anche noi con te. Gli altri reagiscono come dei pecoroni che non vedono bene e seguono l'odore della pecora più vicina. Pietro li sta portando sulla strada sbagliata e nessuno dei presenti solleva un ma o un perché. Nessuno ha il coraggio di obiettare, di portare il proprio colore sullo sfondo grigio prospettato da Cefa. In altre parole, sembra che nella cornice di quella Galilea in cui Gesù attende i suoi, questo gruppo sia un po' in preda alla nostalgia, quella nostalgia definita da alcuni come il rischio che porta alla bestemmia contro lo Spirito Santo. Tornare al passato è più facile per questo gruppo che aprirsi al futuro. Quindi si imbarcano, il testo dice: uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Non potevano prendere nulla quella notte, perché la prospettiva è sbagliata. Tra l'altro, notate i verbi che vengono utilizzati dall'Evangelista: uscirono e salirono. Sono i due verbi delle grandi liturgie ebraiche, le liturgie che hanno a che fare con il memoriale della storia salvifica. L'uscire richiama l'esodo, la Pasqua, è il verbo per eccellenza della Pasqua, il salire richiama la salita a Gerusalemme, l'arrivo nella terra della promessa, richiama le grandi feste di pellegrinaggio. I verbi sono corretti, ma la dimensione che abita questi verbi è vuota. C'è come dire, una liturgia che si limita a dei gesti, ma è svuotata del suo significato all'interno. E quella notte non presero nulla. Perché non presero nulla? Perché gli ingredienti che sono alla base di quella uscita non sono buoni. E sono sostanzialmente tre gli ingredienti non buoni: l'io, il ripiegamento sul passato e praticamente quei verbi che sono svuotati del loro significato, escono e salgono, ma come singoli, non come comunità. Addirittura non cercano quelli che nella comunità mancano. Pietro e gli altri che sono con lui stanno uscendo a fare quello che hanno sempre fatto, senza Gesù e senza la comunità. E questo soffoca, rischia di soffocare l'esperienza di fede, nonostante la Pasqua che questi soggetti, questi protagonisti hanno sperimentato di persona. Allora vedete, il quarto Vangelo sta chiudendo la sua narrazione con una provocazione molto forte nei confronti del lettore. Quindi una scena che si apre con una prospettiva promettente, ma che viene subito, come dire, buttata giù dalla decisione di Pietro e dai frutti di quella notte. Vediamo come il risorto riesce a riscattare questo momento, continuando la sua scuola pasquale, diciamo, nei confronti dei discepoli, aiutando a interiorizzare l'esperienza di Pasqua e a viverla nella loro vita. Ma prima di continuare facciamo un breve stacco musicale, durante il quale vi chiedo di rileggere questi versetti, quindi da 1 a 3, quelli che abbiamo letto e commentato fino a questo momento. Vediamo come continua la narrazione dopo questa notte infruttuosa da parte di Pietro e di coloro che sono con lui. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontano da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Allora, nella cornice di quella notte infruttuosa, ci viene detto che Gesù stette sulla riva. Ecco, il risorto non arriva e non è di passaggio. Il risorto c'era e c'è, si ferma. È come lo spirito sulle tenebre della creazione che trasforma la notte in grembo del tempo, dello spazio, dell'azione di Dio. Gesù sta. Come stette sulla croce, come stabat Maria. Gesù non ha paura di abitare le notti, né di attraversarle insieme a noi. Chi scommetterebbe sui sette che sono sul lago di Tiberiade in quella notte? Chi scommetterebbe sui dodici diventati undici, sull'umanità che si lascia solleticare da ben altro? Scommette su queste persone lui, che è colui che sa. L'egoista nella notte piega le vele, chi ama nella notte sta. Sta la madre al capezzale del figlio, sta l'amato vicino all'amata, sta il consacrato con le mani alzate per il popolo. Chi ama, sta. Il risorto comincia a manifestarsi così, nello stare accanto all'uomo. Del resto proviamo a pensare, il mistero di passione, morte e risurrezione di Gesù altro non è che il segno più grandioso della fedeltà di Dio all'uomo. Dio sta accanto all'uomo fino all'ultimo istante. Dio sta accanto a Giuda fino all'ultimo istante, chiamandolo amico. Gesù stette sulla riva. Il problema è che non si erano accorti che era Gesù. Quante volte succede questo? E perché non ci accorgiamo che Gesù sta? Perché siamo tutti ripiegati su quell'io vado a pescare, su quel io, invece di essere aperti a una dimensione altra. E allora come il risorto educa questa comunità? La educa attraverso una via molto semplice. Prima di tutto restituendo loro l'identità, figlioli. Li chiama figlioli, restituisce a loro l'identità dei figli, ma figli in tono, il tono utilizzato qui è un tono carico di affetto, quindi quel figlioli indica l'affetto di un padre verso i figli più piccoli. Non c'è notte che possa rapire la dignità profonda dell'uomo. Dio si rivolge a quel gruppo chiamandoli figlioli. Poi però, ecco, questo amore va subito a toccare il punto scottante. Non avete nulla? Non avete nulla? Cioè, tanto darvi da fare in questa notte, guidati dal vostro io, guidati dal vostro desiderio, guidati dal vostro impulso, e cosa avete portato a casa? Niente, solo stanchezza, solo frustrazione, solo nervosismo. Di che cosa vi nutrite? Cosa state mangiando? Mangiate il fallimento, mangiate amarezza, è cibo scaduto, che sa di morte, che rischia di attirare gli avvoltoi. Tanto vero che l'unica sillaba che i discepoli riescono a dire a Gesù nel momento in cui lui chiede non avete nulla da mangiare è no, un no secco, come quel non lo conosco, come quel non avevano ancora capito, come quel non sapeva quello che diceva. Senza il Signore le nostre vite si riempiono di no, a noi stessi, agli altri, a chi ci vuole bene. Invece il risorto è l'amen per eccellenza, è il sì, anche quando viene schiacciato, lui è il sì verso l'altro. Anzi, la lettera agli ebrei ci dice che imparò l'obbedienza dalle cose che patì, imparò a dire sì in mezzo alla sofferenza. E ci promette addirittura di dirci sì qualunque cosa chiederemo nel suo nome. Quindi, figlioli, non avete nulla da mangiare, che va quindi nella radice della loro identità. E poi il suggerimento, gettate dalla parte destra della barca e troverete, gettate. Gesù non parla solo a Pietro, parla alla comunità, insieme devono gettare la rete, non basta uno che va a pescare. Gettate dalla parte destra è la parte di Dio, quindi provare a ripensare il proprio fare alla luce di Dio, come Cristo ha vissuto la sua vita alla luce di Dio, al punto da dire che lui e il Padre erano una cosa sola e senza il Padre lui non poteva far nulla. Gettare dalla parte destra significa mettersi ad agire, partire all'insegna però della parte destra, della parte di Dio. E troverete. Non bisogna andare al largo per cercare il pesce è sotto la barca. E a volte le notti sono infruttuose non perché non ci siano pesci, ma perché si parte con la prospettiva sbagliata. Si parte con l'io, dimenticandoci degli altri e restando chiusi in un passato che si basa sulle nostre capacità. Invece bisogna partire insieme, stando attenti a quello che Dio si aspetta da noi e lasciando che sia Lui a guidare la nostra missione. Allora l'efficacia si nota subito. Non riescono a tirare su la barca per la grande quantità di pesci. E uno si aspetta, bene, dopo che è successo questo, sicuramente la comunità rinasce, e non rinasce subito, perché ci dice che chi riconosce il Signore non è Pietro, ma il discepolo che Gesù amava. Il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Cosa fa Pietro nel momento in cui riconosce che il risorto è lì sulla riva che aspetta i suoi? Il testo dice, Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci, erano lontani da terra, non più di un centinaio di metri. Pietro reagisce ancora una volta, ed è la seconda volta, in modo scomposto. Tanto vero che per alcuni che cercano di ricostruire questa scena, la scena sembra addirittura un pochino ridicola. Pietro è spogliato, si veste per buttarsi in mare. Normalmente uno che si butta in mare fa l'operazione opposta. È chiaro che dietro questa immagine c'è anche tutto un simbolismo. L'uomo ha paura della propria nudità, l'io ci lascia nudi. Pietro quindi ha paura di presentarsi al Signore nudo, si veste, si butta nel mare e si presenta a lui. Il problema è che Pietro ancora una volta dimentica la comunità. Quella comunità che fa fatica a tirare su la rete piena di pesci, senza Pietro fa ancora più fatica. Bastava aspettare, era solo una questione di poco più di un centinaio di metri. Insieme potevano arrivare a riva, insieme potevano raggiungere il maestro. No, Pietro si lancia da solo. E Gesù non ci viene detto che gli fa i complimenti. Anzi, Gesù sembra addirittura ignorare il primo degli apostoli. Il testo continua. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Interessante, notano che Gesù aveva preparato per loro già il cibo per ridare ristoro a queste membra affaticate da una notte di lavoro. Probabilmente quando lo straniero aveva chiesto loro non avete nulla da mangiare, pensavano che lo straniero volesse qualcosa da loro. Invece sbarcando si accorgono che lo straniero, che ora riconoscono come il risorto, ha preparato qualcosa per loro, non vuole niente, è lì pronto ad offrire. Chiede però di partecipare con i frutti della loro pesca alla colazione. E disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Notate, ogni volta che Gesù si rivolge al gruppo, usa la seconda persona plurale, non si rivolge mai a Pietro. In questa prima parte del brano. E ricordiamolo, siamo nel brano conclusivo di Giovanni, che ha un valore ecclesiale enorme, però dobbiamo leggerlo per intero per cogliere questo valore ecclesiale. E allora, disse loro, portate un po' del pesce che avete preso ora, portate tutti insieme. Pietro cosa fa? Terza volta che sbaglia. Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci e benché fossero tanti la rete non si squarciò. Gesù aveva chiesto di portare un po' del pesce. No, Pietro sale lui, fa tutto lui, prende la rete, la porta, conta i pesci davanti a Gesù fino ad arrivare a 153. E anche qui in parte una scena ridicola. Certo, ci possiamo vedere i mille simbolismi di tutti i popoli della terra che la Chiesa raccoglie nella rete, però c'è una lettura anche molto più semplice che ci fa vedere per tre volte la fatica di Pietro di vivere la dimensione e la responsabilità di una comunità. E Gesù ancora una volta non applaude Pietro, non gli dice niente, invita tutta la comunità a venire a mangiare. Gesù si avvicina, prese il pane, lo diede loro come pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli. Notate bene, in tutte le volte che nel Vangelo di Giovanni il risorto si manifesta ai suoi, c'è un ostacolo forte. La prima volta l'ostacolo era la paura di tutto il gruppo, la seconda volta l'ostacolo era stato quello di Tommaso, la terza volta l'ostacolo è Pietro. È Pietro. Però il fatto che Pietro per tre volte faccia fatica a vivere la dimensione della missione e soprattutto faccia fatica a interiorizzare l'annuncio del risorto, non significa che Pietro sia da scartare per il quarto Vangelo. No, Pietro diventerà la guida della comunità e ce lo dimostrerà il brano successivo, che leggeremo tra poco, proprio perché l'azione della grazia in lui è stata ancora più potente. Come dirà San Paolo nel capitolo 21 di Giovanni, potremmo applicare anche a questo capitolo, a Pietro, le parole di Paolo: ho faticato più di tutti, non io però, ma la grazia di Dio in me. Lo stesso vale per Pietro. Pietro non ha solo rinnegato tre volte prima della passione, Pietro ha sbagliato tre volte anche dopo la risurrezione di Gesù. Ed è proprio in questo contesto che sarà chiamato dal risorto a guidare la comunità. Ma lasciamo un altro breve stacco musicale in modo che abbiate tempo di rileggere i versetti 4 e 14, dopodiché continueremo con il brano più noto del capitolo 21, quello dei versetti da 15 a 19. Stiamo leggendo questo capitolo 21 del Vangelo di Giovanni e abbiamo notato come nello sfondo della terza manifestazione del risorto sul lago di Tiberiade, quindi in Galilea dove Gesù aveva atteso i suoi, avviene la trasformazione più grande dei suoi, e questa trasformazione è impersonata niente meno che da Pietro, che per ben tre volte sbaglia prospettiva. La prima volta con un io vado a pescare, la seconda volta con uno slancio nel quale si getta nel mare vestendosi prima per presentarsi al Signore, la terza volta quando da solo sale sulla barca piena di pesci e cerca di trascinare a terra la rete piena di 153 grossi pesci. Tre slanci di fronte ai quali Gesù non fa nessun commento di riconoscimento nei confronti di Pietro, addirittura sembra ignorare lui, invitando sempre a porgere invece lo sguardo e a lavorare insieme come comunità. Bene, sicuramente Pietro in questo contesto, durante quella cena, si sarà reso conto che qualcosa forse non era andato proprio bene. Sul finire della cena succede quanto viene narrato nei versetti successivi. Il testo dice: quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per quale morte, con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse, seguimi. Allora notate, Gesù aspetta che passi il momento della cena, dopo quella notte infruttuosa il momento del pasto deve passare. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone figlio di Giovanni. È curioso, Gesù lo chiama partendo dal suo nome di famiglia, Simone, figlio di Giovanni. È un po' come rievocare tutto quello che è, le sue radici, il suo mondo, il suo lago. Quell'appello vuole toccare tutta la vita di Pietro, non solo il cuore e non solo la testa. Lo interpella nella sua identità più specifica, distinta da quella degli altri. Nel gruppo c'è un altro Simone, ma lui è Simone figlio di Giovanni. E poi la domanda, mi ami più di costoro? Una domanda a cui Pietro risponde subito in modo positivo. E Gesù reagisce dicendo, se tu mi ami più di costoro, bene, nutri costoro che sono i miei agnelli. Notate, il primo invito che Gesù fa a Pietro è passare dall'io al noi. Il primo modo di servire il risorto è guidare la comunità nelle due sfumature del pascere e del pascolare, cioè del nutrire e del guidare. Qui Pietro fa l'esperienza del risorto, perché riceve la piena coscienza di come praticamente stava sbagliando direzione con quei tre slanci guidati esclusivamente dal suo io. Noi spesso colleghiamo questi tre mi ami tu, mi vuoi, mi ami e mi vuoi bene, queste tre domande del risorto le colleghiamo al triplice rinnegamento. Ma queste tre domande non sono collegate solo al triplice rinnegamento, sono collegate ancor più al triplice slancio avvenuto nei versetti precedenti, nella cornice di quel lago in cui avviene questa scena e che hanno gettato un'ombra su Pietro, indebolendo quello che poteva essere in qualche modo la sua autorevolezza morale. Qui Gesù lo reintegra. E tutte le risposte che dà a Pietro hanno a che fare con i tre slanci. La prima risposta è quella di tornare alla comunità, di non attaccarsi all'io. La seconda risposta è stare attento perché il cammino della vita è un cammino di spogliazione, dove un altro ti vestirà e dove un altro ti porterà dove tu non vuoi. Non si tratta di vestirsi per andare da Gesù, e non si tratta di lanciarsi dove uno vuole andare, io vado a pescare, io mi butto nel mare e vado da Gesù prima degli altri. Assolutamente no, il cammino di conformazione al Cristo, che ha patito, è morto e risorto, è un cammino di spogliazione, che arriverà fino alla spogliazione piena di sé. Quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Altro che salire sulla barca e trascinare da solo la rete. Un altro ti porterà, non sarai tu a portare nelle cose, nelle persone. Essere responsabili della comunità che il risorto affida significa entrare in un cammino di spogliazione, che è il cammino della libertà, significa lasciarsi condurre dal Signore, significa rinunciare al proprio io. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E anche qui non pensiamo subito alla morte di Pietro sulla croce rovesciata. C'è una morte quotidiana che deve guidare Pietro, che deve plasmare la vita di Pietro, facendolo entrare nella logica pasquale perché lui possa essere la guida della comunità. E detto questo aggiunse, seguimi. Vedete, in questo capitolo noi abbiamo il grande mandato ecclesiale, comunitario di Pietro, che è un mandato di servizio totale, di servizio alla comunità, di un servizio conformato al Signore che ha patito, che è morto e che è risorto. E qui, all'indomani del mistero pasquale, Pietro riceve la pienezza della sua vocazione. Il testo poi continua con gli ultimi versetti che da alcuni sono ritenuti un'aggiunta posteriore fatta ulteriormente al Vangelo, ma che fanno da chiusa di tutto il racconto. Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù, Signore, e che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose, se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa, tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha dette e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Ecco, dopo l'invito a seguirlo, ecco di nuovo la tentazione di Pietro di voltarsi indietro e di cercare di capire cosa succede agli altri, in modo particolare al discepolo amato che sembra avvicinarsi al risorto e a Gesù che stanno dialogando in disparte, al risorto e a Pietro che stanno dialogando in disparte. Allora Pietro si volta e gli dice che ne sarà di lui. E qui è interessante perché il Signore ricorda a Pietro che ogni persona è un mistero a sé. Pietro, anche se guida e nutre la comunità e ne deve aver cura, non deve mai avere la pretesa di possedere il mistero del singolo. Ogni persona ha un mistero che è legato al Maestro e quindi quel mistero va rispettato. Lui deve seguire e guidare la comunità, stando poi attento a quello che dice, perché quella diceria che si è diffusa, chi l'ha diffusa? Il risorto sicuramente no, il discepolo amato sicuramente no, perché è una diceria che in qualche modo lo urta, lo disturba, l'unico che può aver diffuso quell'interpretazione delle cose è ancora il povero Pietro. E allora notate come colui che viene scelto per guidare la comunità è un uomo che continuamente opera una conversione per conformarsi al Maestro che gli ha affidato la comunità. E il testo termina dicendo tantissime altre cose sono state compiute da Gesù e tantissime altre cose attendono di essere scritte, di essere testimoniate. È chiaro che questa sottolineatura finale è un invito al lettore a entrare all'interno del racconto e contribuire con la sua vita a scrivere e a testimoniare queste cose ancora rimaste in sospeso, perché il Vangelo possa continuare ad estendersi dalla Galilea fino ai confini della terra. Ovviamente il lettore, il discepolo che si aggiunge, è chiamato a unirsi a questa comunità guidata da Pietro, che insieme, lasciandosi plasmare ogni giorno dall'azione dello Spirito che plasma l'uomo nelle sue fragilità, insieme diventano luce che brilla nel mondo, luce di quella risurrezione che strappa il mondo dalla morte. Allora, cari ascoltatori, notate la ricchezza di questo capitolo posto a conclusione del Vangelo di Giovanni. Ecco, io ho terminato la mia conversazione, ora lasciamo un breve stacco musicale in modo che la regia possa dare a ciascuno di voi che mi avete seguito indicazioni per contattarmi e per dare una vostra breve testimonianza oppure porre alcuni interrogativi che ci aiutino a approfondire ulteriormente il brano che abbiamo commentato insieme. Resto in attesa dei vostri interventi. Pace a voi, la tua pace sarà sulla terra come nei cieli. Sì, pronto, buonasera. Buonasera, Don Giacomo. Sì, con chi parlo? Sono Ugo da Torino. E volevo chiedergli esattamente la testimonianza della risurrezione di Gesù Cristo. Da chi è stata attribuita, diciamo, nella storia della Bibbia, per sapere, diciamo, che la testimonianza, quando c'è delle persone, è chiaro che uno non può dire non è vero che non è risorto, capisce? Sì. Allora, rispondo alla sua domanda attingendo a quello che è il credo più antico in nostro possesso e che ritroviamo nei testi stessi del Nuovo Testamento, esattamente al capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. Nel capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, ripeto, è il credo più antico che veniva proclamato all'interno delle comunità cristiane, ci viene chiaramente detto qual è la testimonianza del risorto. E allora vi leggo questi versetti dicendo poi brevemente quali sono le testimonianze del risorto. A voi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risorto il terzo giorno secondo le scritture, apparve a Cefa e quindi ai dodici, in seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte di essi vive ancora mentre alcuni sono morti, inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli, ultimo tra tutti apparve anche a me come a un aborto, eccetera. Allora, la testimonianza del risorto, il risorto riceve testimonianza, uno, dalle scritture. Il percorso delle scritture nella sua totalità è attestazione del mistero che noi viviamo e celebriamo. Secondo, dal sepolcro vuoto. Terzo, dalle apparizioni, che non sono manifestazioni eteree di una persona, ma sono manifestazioni in carne ed ossa del risorto. E queste manifestazioni non hanno riguardato solo una persona, ma Cefa, i dodici, più di 500 fratelli, Giacomo il fratello del Signore, Paolo, che apparve a lui come a un aborto, quindi come un aborto nel senso che l'azione di formazione di Paolo non è stata così semplice. Sottolineo soprattutto quel più di 500 fratelli di cui alcuni vivono ancora, è quasi un invito da parte dell'Apostolo a andare a contattare i testimoni viventi del risorto. E vedete, i testimoni viventi del risorto continuano ad esserci in mezzo a noi, laddove il risorto continua a plasmare le vite, trasformandole con un'azione di conversione autentica, sempre segnata dall'apertura, dalla gioia profonda e dalla trasformazione interiore dei cuori. Quindi, caro Ugo, alla tua domanda quali sono i testimoni della risurrezione, direi proprio queste cose, così come a questa risposta, a questa domanda risponderebbe l'Apostolo Paolo. Chiaramente in quei più di 500 fratelli, di cui alcuni vivono ancora, ci sono le donne che sono le prime protagoniste e custodi del mistero della risurrezione. Grazie, Ugo da Torino. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo, sono Privit della provincia di Bolzano. Avrei due domande. Prima mi è venuto in mente, quando hanno mangiato insieme questi pesci, questo pane, la Santa Eucaristia, la Santa Messa in comunità, e poi ho una domanda, nel senso, vorrei chiedere, lei ha detto una volta la spoliazione, si può tradurre questa parola con umiltà? Ascolto per radio. Grazie di cuore, Brigitte da Bolzano. Effettivamente le sue due considerazioni sono molto affini, attinenti al testo. Laddove c'è l'apparizione del risorto, in genere il contesto richiama sempre l'Eucaristia, sempre. Perché l'incontro con il mistero pasquale noi lo abbiamo attraverso le due fonti che nutrono la vita cristiana, la parola di Dio e l'Eucaristia. L'una senza l'altra potrebbero essere rischiose. L'una con l'altra ci introducono nella pienezza del mistero. Ecco perché, ad esempio, ad Emmaus, la parola rischiara la mente, illumina il cuore, ma è l'Eucaristia che apre gli occhi. La parola da sola non basta. E così l'Eucaristia può, nutrire il corpo, ma non cambiare la mente. C'è bisogno della presenza della parola del Signore. Quindi parola ed Eucaristia. A volte ci sono segni eloquenti di tutto questo, come il fatto, ad esempio, di spezzare il pane, prendere il pane, di mangiare del pesce arrostito, cioè c'è il simbolismo del mangiare. Altre volte invece il simbolismo viene evocato attraverso il contesto, l'essere attorno a una mensa, l'essere nella sala alta. Comunque le manifestazioni del risorto hanno in genere a che vedere con la presenza dell'Eucaristia e della parola di Dio come due fonti della vita cristiana. Spogliazione, certo che la spogliazione ha a che vedere con l'umiltà. Il termine tecnico utilizzato dal greco è kenosi, che significa svuotamento, spogliazione, abbassamento. È quel movimento che il Signore ha fatto nell'incarnazione e nella redenzione e che chiede a tutti i suoi discepoli di vivere. Certo, è una dimensione che uno con tanta semplicità commenta, dice, annuncia, ma che poi quando si tratta di vivere sulla propria persona è tutt'altra cosa, perché spogliazione significa certo umiltà, ma significa, può arrivare anche a dire, accettare, come diceva la fine del capitolo 21 di Giovanni, accettare quando sarai vecchio di tendere le mani, accettare di dover dipendere dagli altri. Oppure un altro ti vestirà, accettare di non avere più la padronanza piena di tutte le proprie funzioni, ti porterà dove tu non vuoi, accettare di essere, umiliati. Gesù a un certo punto viene accusato ingiustamente, umiliato, dileggiato davanti agli altri. Ora, tutto questo era parte di un percorso di svuotamento che poi diventerà pieno di fecondità. Ecco, non è così scontato. Quindi, chiaro, lo svuotamento ha a che fare con l'umiltà, ma direi è qualcosa di ancora più pungente e doloroso dell'umiltà come noi normalmente la intendiamo. Grazie di cuore, Brigitte, per queste tue due domande. Pronto? Con chi parlo? Pronto? Guardi, sono Maria da Reggio Calabria. Mi dica, signora Maria. Volevo gentilmente, se mi può chiarirmi, insomma, ecco un concetto. La resurrezione di Gesù, no? è avvenuto ovviamente, se si sa, se si hanno fonti di quanto tempo ha vissuto e se si sa, se ci sono testimonianze della sua morte, perché prima o poi sarà morto di nuovo, vero? Allora, signora Maria, più che dire nel dettaglio adesso questa di rispondere, la rimando a un testo che è stato pubblicato proprio dalla San Paolo, Gesù nelle fonti extrabibliche, si intitola, è un testo molto approfondito che ci dice, elenca tutte le fonti esterne, faccia attenzione, esterne al Nuovo Testamento, perché spesso sentiamo dire, vabbè, ma tanto questo è sempre scritto nel Nuovo Testamento, non abbiamo altre fonti, invece non è vero, ci sono diverse fonti del mondo romano, del mondo greco, del mondo ebraico, che sono testimonianze su Gesù e sono diverse. Quindi io la rimando a questo testo pubblicato dalla San Paolo, Gesù nelle fonti extrabibliche. Troverà a sua disposizione 420 pagine ben dettagliate, ben documentate, con tanto di bibliografia per approfondire, dove una dopo l'altra vengono analizzate tutte le fonti extrabibliche che ci presentano, che contengono dei riferimenti alla figura di Gesù. Alcune sono ovviamente delle fonti polemiche, ma pur essendo fonti polemiche o negative su di lui, diventano indirettamente una testimonianza preziosa. Quindi le auguro buona lettura e la ringrazio per la domanda. Pronto? Pronto, buonasera padre. Sì, con chi parlo? Sono Tonia da Taranto. Volevo chiederle questo, nostro Signore muore venerdì e quindi la sua agonia è dalle 12 alle 15 del venerdì, poi nostro Signore dice che dopo 3 giorni sarebbe risuscitato, però noi lo facciamo risorgere domenica e quindi non passano 3 giorni, mi può spiegare perché questa cosa? Oppure forse non l'ho ben compresa io? Allora, la ringrazio Tonia per la domanda. Per rispondere a questa domanda le vie sono due. Una è la via delle scritture. Più volte nella tradizione profetica si parla dell'intervento salvifico di Dio nel terzo giorno. Non dopo 3 giorni, ma nel terzo giorno. Quindi sicuramente l'immagine del terzo giorno è legata a un mistero che è presente nella storia della salvezza e che trova il suo compimento in Gesù. Ma la risurrezione avviene al terzo giorno, certo che avviene il terzo giorno. Perché avviene il terzo giorno? Perché il modo di contare i giorni della cultura ebraica fino ad oggi non è come il nostro. Mi spiego. Nel mondo ebraico il giorno va dal tramonto al tramonto del giorno successivo, non va dalla notte non va dal mattino alla sera, ma dal tramonto al tramonto. Quindi Gesù muore alle 3 del pomeriggio del venerdì, quindi è un giorno, primo giorno. Il secondo giorno inizia dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato, secondo giorno. Il terzo giorno inizia dal tramonto del sabato al tramonto della domenica. Gesù risorge nella notte della domenica, quindi risorge il terzo giorno. Se noi calcoliamo secondo la linea prospettica, secondo le indicazioni cronologiche del mondo ebraico, Gesù risorge correttamente al terzo giorno, perché il venerdì alle, ipotizziamo 18, comunque nel tramonto del venerdì, quando Gesù muore, scatta un'altra giornata, ma Gesù è morto prima, quindi venerdì prima delle 18 è un giorno, dopo le 18 è il secondo giorno e poi nella notte della domenica è il terzo giorno, quindi ecco perché Gesù è risorto il terzo giorno, proprio per secondo la modalità cronologica del calendario ebraico. Teniamo però presente che al di là del conto preciso, sullo sfondo c'è tutta un messaggio presente soprattutto nella letteratura profetica che annuncia l'intervento salvifico di Dio in tutta la sua pienezza, in tutta la sua potenza, il terzo giorno. Grazie Tonia per la sua domanda. Sì, pronto? Pronto, buonasera. Sono Maria Teresa da Genova. Volevo sapere perché San Paolo non cita la testimonianza delle donne. Anzi, dice che il primo a vederlo è Pietro. Non è vero? Allora, la ringrazio, signora Maria Teresa di Genova. È difficile rispondere a questa domanda. Non le saprei dire come mai Paolo non cita la testimonianza delle donne. Dire 500 fratelli probabilmente includono all'interno della comunità anche il volto delle figure femminili, probabilmente perché c'è una sorta di elenco per ruoli di responsabilità, perché effettivamente lui parte da Pietro, poi passa ai 12, poi passa alla testimonianza forte dei 500 fratelli, poi a Giacomo, poi arriva a sé. Quindi probabilmente sta, come dire, riposizionando le diverse figure, i diversi testimoni della risurrezione alla luce del ruolo significativo. Quello che mi sembra interessante nella ricollocazione di Paolo è che Paolo si mette all'ultimo posto, ma non mette all'ultimo posto solo se stesso, mette al penultimo posto anche la figura di Giacomo, che comunque nel momento in cui lui scrive è quello che è responsabile della chiesa madre di Gerusalemme, quindi anche una figura come quella che era la prima figura di riferimento nel momento in cui Paolo sta scrivendo viene messa comunque al penultimo posto, e prima ci sono quei più di 500 fratelli che a mio avviso includono uomini e donne che hanno ricevuto l'annuncio della risurrezione. Ecco, più di questo non saprei dare una risposta di altro tipo, insomma. Comunque grazie Maria Teresa, perché la sua domanda è fine e opportuna. Pronto? Sì, pronto. Pronto, con pronto. Chi parlo? Sono Danilo da Verona. Mi dica, signor Danilo. Ecco, senta padre, io volevo chiedere questo, cioè Gesù quando muore rimane nel sepolcro 3 giorni? Oppure viene subito la sua esistenza, prosegue immediatamente nell'eternità presso Dio, mi capisce cosa voglio dire? Mm-hmm. Quel corpo praticamente, quel corpo lui viene subito diciamo trasportato in cielo, ecco, questa è una domanda. Poi un'altra domanda volevo chiederle, quando Gesù al ladrone pentito dice oggi tu sarai con me in paradiso, cioè vuol dire, cioè, lui subito va in paradiso, non aspetta mica, non c'è un lasso di tempo, non c'è un intervallo, mi capisce padre? Certo, ecco, certo. Io volevo sentire una sua risposta. Allora, grazie signor Danilo per le sue due domande che sono anche queste molto fini, molto interessanti. Io risponderei dicendo che nel momento in cui noi chiudiamo gli occhi, no, su questo mondo, e quindi anche il Signore ha chiuso definitivamente la sua vita terrena, si entra in un'altra dimensione dove il tempo non viene calcolato alla maniera umana, e quindi l'oggi è l'oggi di quella vita eterna che è sempre l'oggi dell'amore di Dio. Quindi nel momento in cui Gesù dice oggi sarai con me in paradiso, è che nel momento in cui si chiude la vita terrena, il buon ladrone o comunque chi ha il cuore aperto viene subito immerso nell'amore del Cristo e insieme a lui nella vita che dalla morte scaturisce. Ora, Da un punto di vista cronologico noi siamo tentati di contare, però non è possibile dire, di fronte al mistero della vita eterna non è che possiamo misurare il tempo. Quando un seme viene seminato sulla terra, all'interno della terra, nella terra per noi questo seme muore, è caduto, ma nel seme c'è vita. È difficile dire quando questa vita, come dire, c'è un momento preciso in cui la vita sgorga in pienezza. Certo è una cosa, il corpo di Gesù entra subito in una dimensione di vita, tanto vero che nel credo noi diciamo che Gesù morì, fu sepolto, quindi fa l'esperienza della tomba, discese agli inferi. Ciò che precede la risurrezione sono questi tre passaggi che non possiamo misurare cronologicamente secondo un calcolo meramente umano, ma certamente quello che divide dalla morte e dalla sepoltura di Gesù al terzo giorno, dove Gesù risorge, e anche lì in quale ora Gesù risorge non è scritto in quale ora, cioè non è possibile misurare questo. Certamente la fede della Chiesa ci invita a vedere Gesù come uno che opera la salvezza da subito, al punto tale che la sua kenosi, il suo svuotamento, raggiunge il suo compimento. Lo svuotamento di Gesù, questo è importante anche sottolinearlo, non termina con la morte in croce alle 3 del pomeriggio. Lo svuotamento di Gesù termina nel momento in cui viene sepolto e scende agli inferi. Scende agli inferi, certo, già vittorioso sulla morte, dopo già aver abbracciato la condizione di coloro che vengono deposti nel sepolcro, e lì, ecco, con queste esperienze di svuotamento al massimo grado, riesce ad abbracciare, ad attirare a sé tutti coloro che vivono l'umiliazione e la prigionia, perché non sono più lontani da lui, perché lui li ha vissuti in prima persona scendendo al loro livello, e lì prende, secondo le scritture delle icone bizantine ortodosse, afferra per i polsi Adamo ed Eva e tutta la genealogia che li ha seguiti per restituirli al Padre. Ecco, questo è il dinamismo che la fede ci mostra nel mistero e nel silenzio del Sabato Santo, però tutto resta avvolto nel mistero, non è possibile misurarlo in minuti, in ora, in una cronologia che è tipicamente umana. Grazie di cuore Danilo per la sua domanda. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Buonasera, sono Rosa da Bari. Mi dica, signora Rosa. Io non voglio farle una domanda, vorrei darle una mia chiave di lettura, una testimonianza di quello che mi ispira lo Spirito Santo alla luce di questo Vangelo. Vorrei dire, riguardo a quello che ha citato, la spogliazione di Pietro e di chiunque segue Gesù Cristo, secondo me. Io lo leggo come un fatto a largo spettro, insomma, non si tratta qui solo dei vestiti, dell'abito, concretamente della spogliazione del corpo, ma vedo come la spogliazione ha un significato più ampio, la spogliazione di se stessi, dell'uomo vecchio, della natura di peccato. E io in questo mi sento in pieno in questa spogliazione, cioè vedo come il Signore piano piano mi sta spogliando di tutto, della mia natura, e sta provvedendo a cambiare tante cose nella mia vita che io non avrei avuto mai il coraggio di fare, cioè mi ha spogliato di tanti progetti, di tanti sogni, di tante cose che evidentemente erano sbagliate e ha condotto ha condotto la mia vita per strade diverse. E penso che questo sia il percorso per arrivare al battesimo, a vivere il battesimo pienamente, perché al battesimo, nel battesimo ci si immerge nudi, cioè avendo abbandonato la veste che è la propria dignità, la propria... il decoro, cioè quello che uno indossa per mascherare la povertà dell'essere, del corpo. La ringrazio, signora Rosa, per la sua testimonianza. Ecco, vigiliamo sempre quando diciamo ciò che lo Spirito Santo ci suggerisce, ciò che ci sembra che lo Spirito Santo ci suggerisca, cioè sempre il confronto con la comunità. Quando noi siamo davanti alla parola di Dio, davanti alle scritture, quando meditiamo i grandi misteri della nostra fede, certamente lo Spirito illumina, ci dà delle intuizioni, confrontiamole sempre con la comunità in modo poi da fare un cammino insieme. Solo dopo magari si può dire lo Spirito Santo mi ha illuminato e mi ha... non facciamo il, come dire, il salto, l'applicazione troppo veloce, perché nel nostro modo di leggere la parola di Dio c'è sempre magari qualche cosa che è condizionato dalla nostra storia personale. Ecco perché anche in queste nostre conversazioni è importante la duplice dimensione: da un lato il relatore che parla, no, con la comunità, dall'altro la comunità che interpella il relatore, fa delle domande o fa delle considerazioni e che aiuta a far emergere dal testo quello che magari non è emerso in modo sufficientemente chiaro. Allora tutto questo insieme permette allo Spirito di far parlare la parola e di rendere la parola luminosa per quello che è. Quindi grazie signora Rosa, ma attenzione, ecco, a non attribuire subito allo Spirito quello che magari può essere anche una prospettiva legata alle esperienze personali. Grazie di cuore. Pronto? Buonasera. Buonasera, telefono da Lecco, buona Pasqua, Gesù è risorto. Bene, no, Christos Anesti, giusto? Esatto, sì. Ecco, volevo chiedere, la presenza di Gesù risorto nel sacramento, nel sacramento dell'Eucaristia al di fuori della Santa Messa, cioè nei tabernacoli delle nostre chiese, che è realmente presente in corpo, sangue, anima e divinità, risorto. Mi può spiegare, per favore, con le sue parole, la sua presenza, perché insomma è importante. La celebrazione eucaristica è il primo, però poi Gesù è presente anche nel pane, nelle ossa consacrate che si conservano nei tabernacoli. Giusto, padre? Allora, carissima signora di Lecco, lei pone una domanda importante. Certamente laddove noi parliamo di sacramento, il sacramento per eccellenza, cioè la parola per sacramento per eccellenza, evoca l'intero mistero pasquale. L'intero mistero pasquale rivive in ognuno dei sette sacramenti, dove l'azione redentrice di Dio che ha patito, è morto ed è risorto è vitale. Io rispondo alla sua domanda dicendo una cosa sola, cioè è vero che Gesù è presente nei tabernacoli, ci mancherebbe altro, ma quella presenza non avrebbe significato se fosse slegata dall'Eucaristia. Cioè la presenza di Gesù nel tabernacolo è il frutto dell'Eucaristia che una comunità ha celebrato e ha vissuto e che custodisce perché altri membri della comunità possano trovare ristoro nella loro debolezza. E questi membri della comunità sono i poveri, gli anziani, gli ammalati e anche l'anima povera che ha bisogno di raccogliersi davanti al Signore per, interiorizzare ulteriormente la parola di Dio alla luce del mistero del pane spezzato. Ma se noi sganciamo il tabernacolo, se noi lo sganciamo dalla celebrazione eucaristica e dalla parola di Dio nella quale che ci ha preparato a vivere, a celebrare il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù, può essere rischioso, nel senso che rischiamo di trasformare la presenza in una devozione come tante altre. Cioè il tabernacolo non è un quadro davanti al quale io mi metto a pregare. Il tabernacolo e la parola di Dio sono il luogo sacramentale della presenza del risorto che sgorga dal mistero celebrato. Perché allora uno potrebbe anche dire, seguendo un pochino il suo ragionamento, potrebbe anche dire, ma allora a che serve andare a messa? Io mi fermo 5 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora al pomeriggio di ogni domenica davanti al tabernacolo e per me quella è domenica. No, la domenica della comunità cristiana è quella in cui una comunità celebra il mistero di Cristo che ha sofferto, è morto e risorto, ascolta la sua parola e spezza il suo pane eucaristico e con questa forza, con questa vita, cammina nella quotidianità. Ecco, il tabernacolo è frutto di questo, legato da questo, il tabernacolo rischia di svuotarsi del suo significato più profondo e anche rischiamo di non cogliere quella presenza che lo abita. Grazie di cuore, signora di Lecco, ecco, non ricordo il nome, ma grazie per il suo intervento. Cari ascoltatori, vi ringrazio per i vostri interventi, ringrazio Ugo che ha telefonato da Torino, Brigitte da Bolzano, Maria da Reggio Calabria, Tonia da Taranto, Maria Teresa da Genova, Danilo da Verona, Rosa da Bari e l'ultima ascoltatrice di Lecco. Grazie per i vostri interventi perché hanno aiutato a rendere la parola ancora più luminosa. E sullo sfondo di questo unico grande giorno di Pasqua, auguro a tutti voi davvero una Pasqua abitata dalla presenza del Signore e dalla forza della Sua parola. Che la Sua parola ci trasformi, ci abiti, ci invii come ha fatto con Pietro. E anche per noi che la nostra risposta al seguimi di Gesù del risorto sia una risposta positiva. Dio vi benedica tutti, ci vediamo, ci sentiamo tra un mese. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.